lascia stare le mie rime. Ho le materie prime, le ho annaffiate e ci ho buttato anche il concime. Le ho viste crescere, ora sono maggiorenni, pronte per il mondo, pronte per fare danni. Anche la rima è complice del karma, puoi copiarla, ma porta la mia firma come un'arma. Dall'esame balistico c'è una corrispondenza, è naturale, l'ho forgiata sulla mia cadenza. Nel mio cuore porto stili diversi, un bagaglio di cattiveria, occhi diversi. Li vedo su di un foglio prendere forma, si adeguano al beat mentre si trasforma. Quindi lascia stare le mie armi, so che ad armi pari sono io che faccio danni. Non ho tecnica, nessuna rima da manuale, ma il modus operandi è da crimine seriale. Le scrivo ovunque, sono un maniaco convulsivo, nel loro interno ci piazzo l'esplosivo. Ci sono mine su che ancora non hai messo piede, ci sono rime anche per te, basta avere fede. Lascia stare le mie rime, sono farina del mio sacco di concime. Puoi copiarle, cambiarle, ma restano le mie, io so come plasmarle sulle mie idee. La mia rima non infiamma il clima, non fa danni, ma c'è chi la stima. Per ogni peccato mi appello al quinto emendamento. Lascia stare le mie rime, l'ultimo comandamento. La rima baciata è la mia vera fidanzata. Lei già mi seduce mentre viene abbozzata. Le rime con il flow iniziano a fare l'amore. Il cervello si fonde con le vibrazioni del mio umore. Tutte le parole che conosco sono in canna, pronto a fare fuoco. Lascio scorrere la penna, appunti su di un voglio. La bozza dell'ultimo testo, la mia schiena è diventata un manifesto. Tatue e rime, sono un fan dell'inchiostro. La penna si alterna al lago in un eterno incastro. Sul quaderno, sulla pelle, è il mio linguaggio. Simboli delle mie passioni, l'hip hop e il tatuaggio. Sono un rapper dentro, non per contratto. Esterno ciò che ho dentro, quello che astratto. La rima che disegno ha un grosso tratto. Imprimo i suoi contorni come un ritratto. Scrivo una rima al giorno, è figlia di nessuno. Ma la nutro, non lasciandola, me a digiuno. Vitamine in grosse dosi per le mie rime. Loro mi ricompensano con qualcosa di sublime. Lascia stare le mie rime, sono farina del mio sacco di concime. Puoi copiarle, cambiarle, ma restano le mie. Io so come plasmarle sulle mie idee. La mia rima non infiamma il clima, non fa danni, ma c'è chi la stima. Per ogni peccato mi appello al quinto emendamento. Lascia stare le mie rime, l'ultimo comandamento. Non ho doti vocali, ma so mettere insieme due consonanti e due vocali. Rime senza uguali, rime mai banali, incastrate come definizioni, orizzontali e verticali. Le puoi solo copiare, le mie idee sono geniali. Se ci togli l'essenza, sono rime casuali. Puoi chiamarle merda, humus o letame. In ogni modo fanno crescere la mia autostima e la mia fame. Nel mio laboratorio produco metanfetarine, che spaccia cani e porci il mio mangime. Dove mi nutro di sarcasmo, se hai un orgasmo con le rime ti faccio venire un eufemismo. Se le parole hanno sempre un peso, alcune pesano un quintale, con le mie ben sovrappeso. Fammi un uso improprio, ma non abusarne. Ieri davo per le pirla, oggi ti do la carne. Ancora una volta sono fuori col mio sound, come in Photoshop uso la tecnica dell'autobound. Rimango in piedi dopo il secondo round. Fuori dallo show business, ma dentro l'underground. Fuori dallo show business, ma dentro l'underground. Fuori dallo show business, ma dentro l'underground. Fuori dallo show business, ma dentro l'underground. Fuori dallo show business, ma dentro l'underground. Lascia stare le mie rime, sono farina del mio sacco di concime. Puoi copiarle, cambiarle, ma restano le mie. Io so come plasmarle sulle mie idee. La mia rima non infiamma il clima, non fa danni, ma c'è chi la stima. Per ogni peccato mi appello al quinto emendamento. Lascia stare le mie rime, l'ultimo comandamento.